Nico. Ancora il tuo volto ben impresso nella mente. Odio le volte in cui non ti ho detto ti voglio bene. Mi vergognavo, perdonami. Un giorno saremo di nuovo due angeli, andavamo d'accordo. Noi contro tutti, saltava ogni accordo. Anche quando non c'era nessuno, c'eri tu accanto. Sì, fammi capire che ti manco. Ho sempre gli occhi puntati in alto. Ti sento a fianco ogni volta che devo saltare un ostacolo. Giuro, mi sento chiuso dentro un angolo bianco, pensando che ero io il tuo angelo. Ora che voli via in paradiso, ora che strapparmi un sorriso non è facile. Chi è che mi colora le pagine? Ehi, ehi. A volte è così strano il mondo. Vai in ospedale per un intervento al ginocchio, poi qualche settimana dopo ricordo po', dopo la chiamata sfreccio come una freccia a Cosenza. Ma ormai ogni speranza è andata persa. Non so che cazzo mi passava per la testa. Come fa a morire il sole dopo una tempesta? Chi me la spiega questa? Io, sempre uguale, ho più impicci che spicci. Ho visto i miei amici tradirmi, come cazzo dovrei sentirmi? È stato tutto un azzardo. Chiuderò bocca ad ogni bastardo che mi ha infancato. Giuro che ti dedicherò ogni traguardo. Giuro che ti dedicherò ogni traguardo.